Centro Donna Lisa, io ti do il buongiorno, ciao. Buongiorno a tutte, sono Tania del Centro Donna Lisa e oggi speriamo insomma insieme a tante altre donne saremo appunto al municipio IV dove verrà discussa, speriamo, perché effettivamente diciamo la nostra intenzione, che è quella di far chiudere uno sportello antiviolenza che il quarto municipio ha aperto senza rispettare alcuna delle indicazioni, direttive non solo diciamo istituzionali ma anche quelle che sono diciamo ormai la metodologia insomma acclarata dei centri antiviolenza, che è riconosciuta insomma anche dallo stesso Dipartimento delle Pari Opportunità, che insomma vieta assolutamente la mediazione familiare. Insomma, dicevo, questo sportello è stato appunto affidato ad una associazione che non ha innanzitutto come scopo proprio principale quello della lotta contro la violenza alle donne, e è un'associazione che invece tra le sue diciamo attività mette anche la mediazione familiare, che è assolutamente insomma negativa nel caso di relazioni in cui ci sono appunto abusi, e quindi cercheremo insomma di far chiudere questo sportello e saremo appunto presenti alla discussione in consiglio. Ripeto, è messa all'ultimo punto dell'ordine del giorno, speriamo che non vengano fatti i soliti giochi di far venire meno il numero legale o di chiudere i lavori prima di discutere diciamo di questa vicenda e quindi rinviarla alla prossima seduta del consiglio. Noi vorremmo diciamo insomma chiamare un po' tutte le donne a venire, anche perché quello che diciamo intendiamo ribadire innanzitutto non che vogliamo, diciamo non vogliamo uno sportello antiviolenza nel quarto municipio, perché questo è quello che abbiamo sempre auspicato, non solo per il quarto municipio ma per tutti i municipi, anche ed è questa anche una battaglia che viene come dire appoggiata insomma da tutti i centri antiviolenza che come noi anche insomma fanno parte dell'Associazione Nazionale Dire Contro la Violenza, ma anche dagli altri. Il problema è che appunto questo non è uno sportello antiviolenza per le donne ma è contro le donne, per i motivi insomma che vi ho già detto. Cioè è un'associazione quella che lo gestisce e a cui è stato tra l'altro affidato questo sportello senza alcuna trasparenza pubblica, come si dovrebbe fare. Cioè non c'è stato un bando, non esiste, almeno non risulta che esista una delibera di giunta che definisca dei criteri, delle indicazioni, perché questo la giunta dovrebbe fare, e quindi insomma diciamo noi vorremmo assolutamente che questo sportello, cioè così come è gestito, venga chiuso e vi sia invece uno sportello antiviolenza che effettivamente possa combattere la violenza contro le donne. Per questo vi aspettiamo insomma al quarto municipio, l'aula del consiglio a Piazza Sempione, e la discussione inizierà alle ore 12. Poi immagino insomma che sarebbe stato anche più logico consultare poi le realtà territoriali, se in caso appunto il vostro centro, visto che se ne sta aprendo un altro. Sì, tra l'altro poi questo non è un vero e proprio centro, appunto è uno sportello che è aperto due volte al mese. L'associazione che ripeto gestisce questo sportello è composta da 3 uomini e una donna, quindi anche qui viene in contraddizione, in contrasto con quello che è invece sono anche le indicazioni legislative, che in particolare per esempio la legge della Regione Lazio per quanto riguarda il centro antiviolenza richiede proprio che il personale sia tutto femminile, ma non è soltanto che il personale deve essere femminile, l'importante è anche che il personale sia, cioè le donne che svolgono insomma questa attività siano anche formate, cioè abbiano una competenza e abbiano una formazione adeguata, che questo insomma è una cosa molto, per noi insomma molto importante e fondamentale. Perfetto, io ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo l'appuntamento questa mattina a partire dalle 11 a Piazza Sempione.